Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di un progetto di AMA, la società del Comune di Roma che gestisce la raccolta dei rifiuti e i servizi ambientali. A Roma, come noto, problemi insomma di raccolta dei rifiuti oggettivamente ce ne sono, come testimoniano anche delle pagine di cronaca recenti. Tuttavia, questa sera siamo qui a parlare di altro e anzi di un brevetto che potrebbe dare un contributo a migliorare i conti dell'AMA e cercheremo di capirlo, probabilmente anche il servizio. Intanto grazie al presidente di AMA, Daniele Fortini, per essere con noi questa sera. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque Fortini, la promessa di cui parliamo è di vedere una parte dei rifiuti romani, anziché smaltiti in qualche lontana discarica di solito del nord Italia, trasformati in asfalto. C'è dietro un brevetto, poi ne parliamo. Cominciamo invece dalla frazione dei rifiuti. Di quale frazione dei rifiuti stiamo parlando che potranno avere questo destino? Stiamo parlando dei rifiuti che sono lavorati negli impianti di trattamento meccanico biologico e che attualmente sono destinati alle discariche, vale a dire la frazione organica stabilizzata proveniente dai rifiuti indifferenziati, okay. La parte più umida di quei rifiuti. Diciamo che l'umido, quando viene separato all'origine, può andare al compostaggio, mentre quando si mette tutto nell'indifferenziata, questa parte umida voi riuscite più o meno a separarla, ma viene fuori una roba molto sporca ed è di questa qui sostanzialmente che stiamo parlando. Allora, come si trasforma questo materiale in un asfalto? Beh, la frazione organica stabilizzata, come lei giustamente ha ricordato, purtroppo oggi è destinata a discarica. Nel nostro progetto, che discende dal brevetto di innovazione industriale, questa frazione invece noi la raffineremo ulteriormente per togliere quei materiali contaminanti che possono pregiudicarne un futuro impiego e quindi la misceleremo a freddo con pozzolane in grado di incorporare, inertizzandole, le frazioni ancora, le molecole ancora presenti di metalli. In questo metalli modo pesanti in particolare, che sono quelli tossici come sappiamo. Esattamente, e che potrebbero per dilavamento ritrovarsi poi nelle falde e quindi inquinare molto il suolo. In questo modo invece queste molecole vengono incorporate e inertizzate dalle molecole di pozzolana e quindi a quel punto il materiale finale sarà una miscela di materiali inerti impiegabili anche nell'edilizia. Per farci strade, dicevamo, piste ciclabili, questo tipo di coperture. Senta, veniamo un po' ai benefici di questo sviluppo. L'idea è del centro sviluppo materiali, l'idea risale al 2006, il primo brevetto al 2008, insomma ci è voluto un po' per arrivare in fondo. Intanto c'è un beneficio economico immediato che vi aspettate dall'anno prossimo, quando il progetto immaginate che sarà operativo? Beh, intanto c'è un beneficio economico immediatamente evidente, e cioè noi attualmente spendiamo circa 13 milioni di euro all'anno per smaltire questi rifiuti nelle discariche. Nel momento in cui questo materiale non sarà più destinato alle discariche, ovviamente avremo un immediato risparmio che si traduce in un beneficio economico. Dopodiché vi è un vantaggio ecologico, perché ovviamente questi che oggi sono rifiuti diventeranno un prodotto e quindi saranno sottratti a tutte le dinamiche. Ecco, per la precisione, c'è uno scarto anche in questo processo, quello immagino che andrà a discarica, ma insomma, ma il grosso del problema appunto dovrebbe essere risolto, no? Assolutamente sì, noi contiamo di avvicinarci al 100% di riciclabilità. Ah, quindi è proprio minimo lo scarto. Senta, esatto. Oltre al beneficio diciamo economico, una tonnellata di quella roba lì costava 150 euro smaltirlo in discarica, questi comunque sono i costi più o meno medi di queste procedure. C'è un aspetto migliorativo anche per quanto riguarda il servizio che si possono attendere i cittadini romani? In realtà sì, perché oggi il nostro sistema è molto fragile. Noi abbiamo molti colli di bottiglia nell'organizzazione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma, e quando un impianto di trattamento o di smaltimento non funziona, il riverbero immediato è il cassonetto pieno sulla strada che non viene svuotato. Nel momento in cui invece il flusso dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento è sicuro, perché non ha bisogno di discariche che sono ubicate magari tutte fuori dalla regione Lazio, a quel punto anche il flusso della raccolta è certamente più efficace, tempestivo e dinamico. Quindi è uno dei colli di bottiglia, forse non è l'unico questo, ma comunque un collo di bottiglia in meno che potrebbe avere dei benefici, quindi si spera anche per i cittadini romani. Finora, come dire, stiamo parlando di un progetto, ma dovrebbe essere vicina alla realizzazione, così? È così, perché in realtà gli equipaggiamenti tecnici necessari sono già disponibili sul mercato, la progettazione la completeremo entro il prossimo mese di ottobre, poi i tempi tecnici per avere le autorizzazioni ovviamente dalle istituzioni, e immediatamente dopo passiamo alla fase di costruzione dello stabilimento, che impiegherà 3 mesi. Quindi per la primavera del prossimo anno contiamo di essere pronti ad evitare l'uso delle discariche. Grazie, grazie Daniele Fortini e buon lavoro allora. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.